ora chiedi. Flow che fuoco, tu chiami i pompieri. Tutti in alto però non li vedi. Tu sei scarso però non rimedi. Tutti sono uguali, io ho flow diversi. Per questo quando rimo io sembro Messi. Pensano del rap io tra due versi. Infatti sono asini, io fanno i versi. La gente che vuole solo me va d'anticipo. Nuovi sento me, dicono come cazzo ho fatto a farlo. Giro quando sento te, dico come cazzo fatto. Se mi porti in giro dici come cazzo spacca palco, yeah. Il tuo rapper preferito ha fallito. D'altronde più quotato del posto fisso, oh. Macete leggendaria, yeah. Se esce un disco trovi sopra tutta Italia. Fra Big Bang nella mano, rip rap se richiami. Riusciamo ad andare su senza che le chiamo, yeah. Se guardi nel tuo culo bene trovi un cazzo. Te ne è rimasto uno tipo Royal Rumble. Continuo a chiedermi perché fa il Mario Bros e sei Yoshi. Fanculo a te, quel bambino che fa gossip. Oh, oh, ok, ok, ok, ok, ok. Da mi prendono alle spalle e continuo a chiedermi perché fa il Mario Bros e sei Yoshi. Fanculo a te, quel bambino che fa gossip. Oh, oh, ok, ok, ok, ok, ok. Da mi prendono alle spalle e continuo a chiedermi perché. Accelerando la vita, cuéntame la tuya y yo la mía. Que en Instagram se ve bien aburrida. Hasta tu madre quisiera ser la mía, mía. Y no hay explicaciones. Ya no vemos cash, todas son transacciones. Cero de fronteo, lo demuestro en las acciones. Mi negocio no lo cierro si no me hablan de millones. Preferida, diario empezamos en el barrio. Vida de empresario, de negocio tengo varios. Los intereses que me llegan son más que tu salario. Bendiciones para ti y para todos tus sicarios. Yeah, tengo verde como Yoshi. Nadie me cuida, todo el tiempo estamos low-key. Oh, okay, okay, ok, ok, ok, ok, ok, ya. Tengo los dientes diamantes y la familia a mis pies, yeah. Si no queda, tengo verde como Yoshi. Nadie me cuida, todo el tiempo estamos low-key. Oh, okay, ok, ok, ok, ok, ya. Tengo los dientes diamantes y la familia a mis pies. Latino gang, mirino al Pacino, bang. Di fan in delirio, Stan. Mi basta una strofa e ti sistemo. Tutti tradiscono tutti, frate prendi appunti. Nel rap italiano se guadagni soldi perdi punti. Rima affilato l'ambiente qui è trafficato, tu zitto sfigato, ma c'è te la gang a cui sono affiliato. Vuoi fare il poeta ma non sei Bukowski, uno qualunque Mario Rossi, fai Mario Bro ma sei Yoshi. Fai Mario Bro ma sei Yoshi, Mario Bro ma sei Yoshi. Per digeri sta merda non bastano gli occhi rossi. Non basta prendere il brioschi, Brody, non chiamarmi Brody, se no poi il flow lo conosci. Se no poi il flow riconosce, fa bro, oh, oh, oh, oh. Fa splash splash, la tua tipa no, oh, oh. Non è colpa mia, bro, sento la tua sangue, Radio Maria. Continuo a chiedermi perché fa il Mario Bros e sei Yoshi. Fa il culo a te, quel bambino che fa gossip. Oh, ok, ok, ok, ok, ok. La mi prendono alle spalle e continuo a chiedermi perché. Vuoi fare il boss ma sei una pussy. Cali Wiz e che ho diversi gusti. Gang gang, la tua roba è pacco, mi disgusta. Il culo è grosso grosso di sta rossa, c'è una russa. Ok ok, sto pensando ai cazzi miei soltanto. No yo, no yo. Diamanti su rolli accecano. Quando passi sta puttana vuole gossi. Io voglio farne troppi. Fumando verde Yoshi, baby non ho rimorsi. Ok ok ok ok. Meglio ti soppio il macete per gli infami. Ti appendiamo come un posti. Posti, vita vera mica joystick. Ti odiano più in cazzo, quindi lasciali a si Yoshi, Yoshi. Guarda come sto volando, meglio non mi guardi. Sei uno Yoshi che vuol fare Rambo. Mamma c'è the gang, Campla Plaza già parti svantaggio. Money money man, come Floyd tu si stai giocando, yo, yo, yo. Continuo a chiedermi perché fa il Mario Bros e sei Yoshi. Fanculo a te, quel bambino che fa gossip. Oh, oh, ok, ok, ok, ok, ok. Drammi prendono alle spalle e continuo a chiedermi